inizia una nuova settimana. Buonasera a tutti. Lunedì, appuntamento replicato il mercoledì. Arden Devi con il nostro consueto appuntamento dalle 20 alle 21, offerto da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano, la voce di Marco Gravelli, tutti i testi preparati dal nostro autore Simone, il nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano, www.mariposadischi.it, il sito web. Non ho dimenticato nulla? Beh, naturalmente il saluto a voi. E allora partiamo con il nostro riallaccio al passato. Fastway, la prima band inglese creata nell'82 dal chitarrista Fast Eddie Clark, appena uscito dai Motorhead. Probabilmente anche per quello, per il suo soprannome di Fast, è arrivato il nome di Fastway, insieme al bassista Pete Way, che era appena uscito da UFO, quindi una super band. In effetti il nome deriva dall'unione, come vi dicevo, del soprannome di Clark, detto Fast, e il cognome di Pete, detto appunto Way. Purtroppo, a causa di motivi contrattuali, Pete non poté prendere parte alla band, poiché era ancora sotto contratto con l'etichetta degli UFO. Pertanto viene reclutato un altro bassista per arrivare all'omonimo album d'esordio del 1983, che arrivò al numero 30 in America, e in Inghilterra gli valse un tour di spalla agli Iron Maiden e Saxon. Il successivo All Fired Up del 1984 andò un po' meno bene dell'esordio, ma nonostante tutto andarono a supporter degli AC/DC in Inghilterra. Seguirono numerosi cambi di line-up ed altri tre album in studio. Da segnalare che il quarto lavoro, Trick or Treat, è la colonna sonora dell'omonimo film, e che gli valse anche date di spalla a Ozzy Osbourne, mentre l'ultimo lavoro, On Target Reworked, è uscito nel 1997, al quale è seguito l'anno dopo lo scioglimento ufficiale. Clark ha riformato la band con nuovi musicisti e ha suonato lo scorso giugno durante lo Swedish Rock Festival. Lo andiamo ad ascoltare con questo brano, che si intitola Easy Living, dall'omonimo album d'esordio Fastway. Una analogia in questo gruppo creato appunto da Fast Eddie Clark con quello, il gruppo suo precedente Motorhead, formazione a tre anche per questi Fastway, album ad esordio prodotto da Eddie Kramer, pubblicato da una major qual era all'epoca la CBS, ormai con tutte queste fusioni di etichetta si chiama Sony BMG. Passiamo alla prossima band più heavy metal, si chiamano Warlord, quindi andiamo in America questa volta. perché arrivano da Los Angeles, nati agli inizi degli anni 90, considerati oggigiorno una cult band, e anche l'album che andrò a proporvi è molto molto raro. Fondatori del gruppo sono il bravo batterista Mark Zonder e il chitarrista Tsamis. È grazie alla partecipazione alla compilation Metal Massacre volume 2 che nel 1983 arrivano all'esordio tramite la Metal Blade Records con un EP di 6 tracce dal titolo Deliver Us, che fu molto ben accolto da critica e pubblico. In occasione dell'album di debutto la formazione passa a 5 elementi con un nuovo cantante e un secondo chitarrista. Il risultato è l'album And the Cannons of Destruction Have Begun. Siamo nel 1984, comprendeva anche le 4 tracce dell'EP per l'occasione riregistrate con la nuova formazione. La band pochi anni dopo si scioglierà e c'è da segnalare che il batterista Mark Zonder nell'88 entrerà nei Fates Warning, con i quali suonerà per ben 17 anni, mentre Tsamis formerà i Lord Guardian. Seguono 2 compilation fino al 2001, quando i Warlord si riformano con Zonder alla batteria, Tsamis alla chitarra e alla voce lo svedese Joakim Kens degli Hammerfall. Così, a 18 anni dall'ultimo album in studio, è uscito nel 2002 il secondo lavoro, Rising Out the Ashes. Ma dal primo storico album andiamo a proporre le note di questa canzone che si intitola Lost and Lonely Days, The Warlord. Lost and Lonely Days. Siamo nel 1983 con la pubblicazione di questo album, di questo, anzi 1984 per essere precisi, di questo lavoro, il loro primo e più bello tra i due lavori pubblicati. And the Cannons of Destruction Have Begun era Lost and Lonely Days, la formazione è quella dei Warlord. Ritorniamo un po' ai giorni nostri. Loro hanno suonato dal vivo supporto agli Annihilator e Ice Dearth il 10 di ottobre, sorprendendo positivamente il pubblico. Si tratta di una epic metal band che proviene dalla Finlandia, si chiamano Turisas, gruppo nato nel 97 dal cantante e dal chitarrista. Dopo aver registrato un paio di demo tapes e dopo alcuni cambi di lineup registrano un EP. L'esordio risale al 2003, quando tengono un contratto con la Century Media, che ne ha pubblicato l'album Battle Metal nel 2004. Dopo 3 anni, sempre su Century Media, è uscito questo secondo album, The Varangian Way, ed è un concept composto da 8 tracce. Noi andiamo a proporvi quella che si intitola To Holmgard and Beyond, dalla Finlandia ai Turisas. Yeah. decisamente epici questi Turisas, edito anche in Italia tramite la Amy Music, che distribuisce appunto da un po' di tempo questa Century Media. Hanno suonato dal vivo il 10 di ottobre con Easter Fanilator. Questo è il loro secondo album, decisamente epico per questa formazione finlandese, dal viso, dal volto anche pittato. Varangin Way, il titolo dell'album era To Home Garden Behind. Ritorniamo al passato, andiamo in Canada con la prossima band che si chiama Coney Edge. Arrivano da Toronto, propongono un buon melodic hard rock che in patria all'epoca, siamo negli anni 80, ha riscosso un buon successo. Nati nell'81, l'esordio arriva l'anno seguente con l'omonimo album, che fu ben accolto da critica e pubblico, tanto che ricevette il disco d'oro in Canada e gli valse un tour di supporto ai Judas Priest e ai Triumph. Segue un secondo album dal titolo Howdy Hand nell'83, in linea con l'esordio. In occasione del terzo Friction c'è da segnalare un cambio del batterista, però visto che la band ha un successo sì, ma solo in patria, non riesce a sfondare in America, si sciolgono nell'86. Si riuniscono sei anni dopo nel 92 per alcune date dal vivo in occasione dell'uscita del loro album Best Of. Dal primo lavoro, intitolato Coney Edge, andiamo ad ascoltare quello che era il singolo. Fu realizzato anche il videoclip, Devil's Deck, Coney Edge. Yeah! Per chi non li conosce, ottima band di melodic hard rock canadesi, Connie Hatch, era Devil's Tech, pezzo d'apertura del loro album d'esordio, nonché videoclip all'epoca di quella pubblicazione. Altra band importante nel panorama heavy metal del passato, che si sono però riuniti da pochissimo, sono gli L-Star, nati in Texas, recentemente ritornati insieme con il bravissimo vocalist James Rivera, che è stato presente in tutta la storia della band. James Rivera, che però ha suonato anche nei Seven Witches, nei Destiny End e alla fine anche nei Vicious Rumor, dai quali è appena uscito. Il gruppo nasce nell'82, dopo un demo arrivano al contratto con l'album d'esordio Burning Stars del 84, seguito nell'85 dall'ottimo Remnant of War. Per il terzo album c'è il passaggio alla Metal Blade, che pubblicherà i seguenti due album fino all'ultimo del 95, che fu pubblicato dalla Massacre Records. La band si è riunita lo scorso anno con la lineup del loro album Remnant of War, eccetto il batterista, e lo scorso giugno ha stipulato un contratto con la AFM Records per pubblicare due album. Uno è una sorta di best of, è appena uscito, dove hanno risuonato i classici della loro produzione più due tracce nuove, mentre il prossimo, quello nuovo, con brani completamente inediti, uscirà nel 2008. Quindi dal passato andiamo ad ascoltare questa Angel of Death, dall'album che è il Best of Sins of the Past. La versione originale si trova nel secondo album più importante della band, Remnant of War. Sono gli L-Star. shadow, they're crying for the moon. Their whispers fill the twilight zone now, but they're not angels of love. Yeah. You're not scared of shadows. Someone of love, yeah. I'm getting up at night, barking at the morning light, like a flame that used to burn so long ago. Growing older every day, loving going far away. Now and forever, you go against the flow. I love it. Laugh in the face of danger. I slap in the face of danger. Somebody's gonna let you know when the wind is from cold. This time it's a one-man show. Forget everything you know. That's a painless way to go. Darker than the darkest night, not a living soul in sight. Climbing your ivory tower, try to keep a good man down. I'm a stranger in your town. This time you're reaping what you sow. I'll love it. Laugh in the face of danger. A slap in the face of danger. Laugh in the face of danger. But who am I to break? Di Arden Devi insieme a Marco Gravelli nel primo appuntamento e terzo, visto che quello del lunedì viene replicato il mercoledì. Abbiamo iniziato questa seconda parte con il nuovo album dei Soul Doctor, che è una hard rock band tedesca composta da quattro elementi, con in cantante Tommy Hardy, Fair Warning, bravissimo, dell'ottimo hard rock blues. Il gruppo nasce nel 99 quando Tommy Hart lo crea insieme al chitarrista Chris Lyne, amici di vecchia data che avevano già lavorato insieme 13 anni prima in una band chiamata Heartline. L'esordio arriva agli inizi degli anni 2000 con l'omonimo album, seguito da System Go Wild e poi diversi tour, supporto a Alice Cooper, Ronnie James Dio, Kingdom Come. In occasione del terzo lavoro del 2005 ci sono stati alcuni cambi di lineup ed è da poco uscito questo nuovo Blood Runs Cold. Oggi vi ho proposto Love in the Face of Danger. Ricordo che la band suonerà, ma c'è tempo, ma mica tanto perché siamo quasi vicini alla fine dell'anno, per quattro date il prossimo gennaio: il 17 gennaio a Milano, il 18 a Roma, il 19 a Prato e il 20 chiuderanno il tour in quel di Roma. La prossima formazione ci porta in Brasile, si chiamano Shaman, uscito tramite l'etichetta italiana Scarlet Records, il loro terzo album dal titolo Immortal. Il gruppo è nato da tre ex membri degli Angra nel 2000, con il cantante André Matos, il batterista Luis Mariotti, attualmente unico membro storico, e poi il bassista Riccardo Confessori. Come chitarra viene reclutato Ugo Mariotti, fratello del batterista. Dopo l'album di debutto nel 2000 dal titolo Ritual, che ottiene un buon successo, arriva il secondo lavoro, Reason, a metà del 2005, che deluse un po' le aspettative. E in questo album, il terzo, c'è veramente un cambio totale di line-up. L'unico, vi dicevo, è il batterista rimasto Luis Mariotti, nuovo cantante Tiago Bianchi. Li ascoltiamo con Tribal Blood Shaman. Shaman dal Brasile con il nuovo cantante Thiago Bianchi con il loro sound dall'album Immortal, era Tribal Blood. Andiamo in Italia, più precisamente nella città di Varese, con questa band composta da quattro elementi, si chiamano Fury and Grace, sound heavy trash con influenze progressive. Band formata dal chitarrista fondatore Matteo Carnio degli Age of Forever, batterista Emiliano Bertossi dei Doom's World, bassista Christian Grillo degli Age of Forever, cantante Gabriele Grilli, che ha cantato nel primo album dei Doom's World. Il gruppo nasce nel 94, cambiano il loro sound, sono stati un po' sfortunati all'inizio perché hanno registrato due album che non sono mai stati pubblicati. Finalmente, grazie a un'etichetta italiana, la Dragonar Records, è uscito questo album, il loro vero e proprio debutto, che si intitola Tales of Grotesque and the Arabesque. Il tutto è stato masterizzato, mixato, sono 6 le tracce in totale, nei Moonhouse Studios con Danilo Di Lorenzo, che ha già lavorato per i Lacuna Coil e i Love Crave. I Fury and Grace, se volete vederli dal vivo con ingresso gratuito, suoneranno venerdì 14 dicembre al Pepper Café di Comabbio, provincia di Varese. Li ascoltiamo con questa Grotesque and Arabesque, pezzo che apre il loro album, Fury and Grace. divisa in tre movimenti questa canzone, grotesca e arabesca, in pratica dà il titolo a quest'album, un heavy thrash con insert prog per questo quartetto tutto italiano di Varese che abbiamo proposto dal loro album praticamente d'esordio su etichetta Dragonal Records. Si chiamano Fury and Grace, ripeto, l'album si intitola effettivamente Tales of the Grotesque and the Arabesque. E arriviamo anche per quest'oggi all'appuntamento con le news. Symphony X, la band americana che ha suonato il Gods of Metal di quest'anno e che qualche settimana fa era nuovamente in Italia per ben 5 date di Spal e Dream Theater, ha reso noto che tornerà il prossimo anno per altre 2 date, precisamente il 25 febbraio al Viper di Firenze e il 26 al Fillmore di Corte Maggiore Piacenza. I Tiamat, la band svedese, è pronta a tornare con un nuovo album, il titolo sarà Amaterz. L'album sarà pubblicato il 18 aprile per la Nuclear Blast. Sepultura, il chitarrista Andreas Kisser pubblicherà il prossimo aprile un album solista, sarà un doppio CD dal titolo Hubris 1 and 2. Curioso invece il lavoro del bassista Markus Groskopf degli Halloween, che esordirà il 25 gennaio con una produzione solista. La sua band si chiamerà Bass Invaders, del resto lui è bassista, il titolo sarà El Bass Beaters, sarà un album di heavy rock senza chitarre, 14 brani, una delle quali è la cover Eagle Fly Free degli Halloween. Tra i special guest abbiamo basso Dennis Ward dei Pink Ring 69, Dirk Schlachter dei Gamma Ray, Billy Sheehan, Marco Mendoza dei Thin Lizzy, Joy Vera dei Faith's Warning e Jens Becker dei Gravedigger. Batteria Stefan Ardo dei Gravedigger, Andre Ilgiers dei Rage Axis e Silent Force. Voce P.V. Wagner dei Rage, Tom Agel Reaper dei Sodom, Schmier dei Destruction e Apollo Papatanasio dei Firewind. Ripeto, niente chitarre. Invece i Judas Priest hanno reso noto che partiranno in tour l'anno prossimo, giugno del 2008, dopo la pubblicazione del loro concept album su Nostradamus. A proposito di concerti dal vivo, ci siamo, questa è la settimana per vedere questo power trio tra gli Axis, Gamma Ray e Halloween. Come avete già sentito nelle nostre interviste, Halloween e Gamma Ray ad un certo punto dello spettacolo saranno sul palco insieme. È appena uscito del resto anche il nuovo album dei Gamma Ray, del quale andiamo a proporre proprio la canzone che apre l'album. L'album è Land of the Free Part 2, il motivo si intitola Into the Storm. Change me. Into the Storm, il pezzo d'apertura di Land of the Free Part 2 per la formazione dei Gamma Ray che abbiamo ospitato con Kay Hansen poco tempo fa. La settimana scorsa, a proposito di ospiti, c'era con noi insieme a Claudia la trentenne ex cantante dei Nightwish Tarja Turunen, dove abbiamo presentato il suo nuovo album, il primo da solista, My Winter Storm. È un album molto vario, di metal c'è molto poco, c'è la cover di Alice Cooper di Poison, ha già venduto 500.000 copie in Finlandia appena uscito. Oggi vi presento questo brano che si intitola Charyan's Well, da My Winter Storm, Tarja Turunen. Turunen dal suo album solista My Winter Storm, pubblicato anche in Italia sulla Universal Record come etichetta, da poco uscito. Ultimo brano che andiamo a proporvi per il primo appuntamento di questa settimana di Arden Devi riguarda la formazione degli Arch Enemy. Settimo album in studio, Rise of the Tyrant, per la melodic death metal band svedese creata nel 96 da Michael Ammott, dopo essere uscito dai Carcass e dal fratello Chris Ammott, di recente rientrato in formazione. Alla voce troviamo la bella tedesca Angela Gossow, entrata in lineup nel 2001 in occasione del quarto album per sostituire il precedente cantante Joan Liva. Questo nuovo album si intitola Rise of the Tyrant, presenta 11 brani, uno è strumentale, prodotto ottimamente dall'esperto Frederick Nordstrom nei suoi studi personali. La band suonerà l'Alcatraz di Milano il 6 dicembre in occasione di un mini festival chiamato The Black Crusade, insieme a Machine Head, Trivium, Dragon Force, Shadows Fall. Ci saranno anche loro. Dal loro nuovo album, per chiudere il nostro appuntamento di questa sera, andiamo ad ascoltare The Day You Died. Grazie a voi per avermi seguito, un ringraziamento allo sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano, nonché al nostro autore Simone. A domani sera, da Marco Gravelli è tutto, ciao ciao! Yeah.